Ciao, io sono Marco, benvenuti su Ciao Como Radio. E sono qui per presentarvi un pezzo di musica metal che ha riscosso molto successo dopo gli anni Ottanta. È uno dei primi successi dei Metallica, ancora purtroppo sconosciuto nonostante le performance radiofoniche che i nostri hanno perseguito negli ultimi anni con successo, ma ai miei tempi Metallica significava demonio, adesso significa Dio, ma naturalmente in altri tempi è sempre stato così, ecco. O comunque, quale essere divino più simile a Dio del diabolico Satana, chiamato anche Lucifero, la luce del mattino, mentre io sono il tramonto della luce, Marco, detto Marte. Gli amici Marziale. Questa canzone, questo brano, si chiama The Call of Cthulhu. Cthulhu non è una parte particolare del corpo, anche se può anche essere, ma può anche essere la parte che sta di fronte. Si chiama La chiamata del dio Cthulhu. Cthulhu è la piovra gigante, questo essere divino semi-immortale, su cui vi invito a informarvi, seppure non lasciarvi andare a particolari protezioni, anche se ecco, ci sono dei bellissimi video su YouTube in relazione alla psichiatria, di cosa può essere appunto la scoperta di questo culto di Cthulhu, che è la rappresentazione del molteplice. Quindi la negazione del divino e l'affermazione della mostruosità. Ecco, manderei la canzone. Thank you. tratta di una raccolta di prose diversi che ho elaborato negli ultimi 5 anni e che troverà presto conforto in un'edizione, naturalmente non sta solo a me ma anche al famoso cash, perché non c'è arte che non abbia a che vedere col denaro, nemmeno l'arte sacra, anche Donatello veniva pagato. Si chiama, titolo di quest'opera, di questa piccola prosa, è Invasato Vessato, grande devasto dell'invasato, anima immobile, che sopraffina ti sdegni, sia Venere Cupida e Marte Marziale, che mistici stitici vanno sorretti per le vie, scorti con occhi mutevoli, fugando il frugabile, le patacche agghindate, le ferite abbrustolite sulle carni livide. Vedrò il tuo sguardo, vigile e rinvigorito, mentre per poco, nel mentre mi affogo, al filo del derma, nel liquido inestinguibile, dissenziente e insensibile, da fragile impaccio infradiciato. E sorti mutevoli muteranno la sorte, una sorta di insurrezione sorretta da finalità nei principi che vanno dal darsi che è vano al vano che dà da venire. Ogni sgherro è sovrano, dalla strafottenza non me ne viene, avrò d'avere dandomi agli averi, e chi ne conviene ne convenga a convenienza convenuta. Il cuore accorato, lo spirito spiritato, nelle fratte affastellato, le parti mosse per muovermi parziale, non è il tentare che mi tenta, è che nulla sopporto se porgo il mio apporto ad un apportamento importante. Meglio mentire meritevolmente, il menzognero merita menzione immantinente. Il mio cuore arde incombusto, il sempitermo è sempre intento, l'usura ne diverge e l'attrito vi divarica. Andrò, andante dell'andare che va, andando sopportando l'insopprimibile soppressione, dietro di noi e dentro di noi, arretrandomi addentro, addentandomi al retro. Liberati dalla morte che libera è la vita. Birra ambrata, brama macabro, il Marco Marcomanno, maggiore magno, maggior magno e mango mignon. Chi si sacrifica nella morte muore nel sacrificio, ciò è sacrificabile, pietra ammassata, masso impietrito. Vi saluto, per stasera è tutto, per quanto mi riguarda sporgo i miei saluti in particolare a Antonella e Sergio, che sono dei carissimi amici che mi sostengono e che mi danno un approccio anche finanziario per, e soprattutto poi vabbè, naturalmente Gastone Terrani che conoscete già, Matteo Mendolicchio, ma in particolare Antonella e Sergio, di cui non porgo i cognomi, sono delle persone di questa città come ve ne sono delle altre che hanno creduto in me e al pari di Gastone e di Matteo mi hanno aiutato e mi hanno dato di che vivere, ecco, come i miei genitori, come del resto anche altri, tanti parenti, tanti amici. Vi saluto e ci vediamo, ci sentiremo presto, arrivederci. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.